vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 23 giugno, il sole in regione è sorto alle 5.16 e tramonterà alle 21.03. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Il tema è oltremodo di attualità e delicatezza, il rapporto tra agricoltura e fauna selvatica frutto di tante incomprensioni nel passato. Serve armonizzare la legislazione in materia e prendere le decisioni giuste nei tempi dell'agricoltura e non della burocrazia. Ne parliamo nel servizio di apertura con Marco Buzziolo, già conduttore di Vita nei Campi e responsabile culturale dell'Associazione Giornalisti Agricoli, che sulla materia tiene lezioni e conferenze in Mezza Italia. L'andamento climatico degli ultimi mesi ha condizionato le scelte degli agricoltori, creando una serie di dilemmi culturali cui cerchiamo di dare risposta nella rubrica del bio. A seguire due contributi su due piante comuni ma importantissime anche in regione, il melograno e il timo. Di antibiotico resistenza parleremo invece nella rubrica della sicurezza alimentare, per passare poi alla ricetta del vitello tonnato, che storicamente con il tonno non aveva proprio nulla a che vedere. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Oggi Vita nei Campi vuole affrontare un tema oltremodo delicato, il rapporto tra agricoltura e fauna selvatica. Lo facciamo con Marco Buzziolo, vecchia conoscenza di Vita nei Campi, è stato uno dei conduttori storici, giornalista e responsabile culturale dell'ARGA, che è l'Associazione dei Giornalisti Agricoli. Tiene seminari un po' tutta Italia proprio su questo argomento. Stiamo spargendo prodotti chimici per tener lontani dei corvidi dalle semenze. È giusto avvelenare, tra virgolette, il territorio per fare questo, o ci potrebbero essere altri metodi? La domanda è retorica, ovviamente. Certo che non è giusto, ci sono molte altre soluzioni possibili, la prima delle quali l'utilizzo ovviamente del corpo di volontariato che è costituito dai cacciatori. Una cosa che una volta si faceva, quando non esistevano i presidi chimici per l'agricoltura, veniva fatto regolarmente. Per quanto riguarda, abbiamo parlato dei corvidi, del mais e di questo controllo chimico, passiamo a uno dei temi che è forse più d'attualità, il rapporto con i cinghiali. I cinghiali sono una specie problematica in tutta Italia. Qui da noi sono problematici, diciamo, tutta nella zona della bassa friulana, nella zona del Carso Elisontino e del Triestino, un po' meno nelle zone del Cividalese, delle valli del Natisone. Io, per esempio, nella mia riserva cinghiali sono virtualmente spariti da circa 7-8 anni. Tutta quell'area lì ha avuto, non si sa perché, un crollo numerico da questo punto di vista. Tuttavia, le forme di controllo sono molteplici e vengono fatte attuate regolarmente in tutta Italia. Oggi il problema principale del cinghiale è il rischio che possa arrivare anche all'interno dei nostri confini la peste suina africana, che è dilagata in pochissimi anni, partendo diciamo dalle sponde del Mar Nero, trasportata a quanto pare da un cargo portoghese 7-8 anni fa, è risalita completamente lungo l'Ucraina, lungo la Russia e tutta l'Europa orientale, è approdata addirittura in Ungheria, quindi ormai diciamo che è quasi ai nostri confini. L'unico che l'ha combattuta con efficacia è la Repubblica Ceca, che ha creato proprio di recente, ha dichiarato il suo territorio esente da peste suina africana, ovviamente col fucile. Un altro vecchio problema non risolto, quello delle nutrie. Le nutrie però hanno un vantaggio, non sono più considerate fauna autoctona, non sono considerate selvaggina, quindi possono essere abbattute senza nessun problema. Il problema è trovare chi va ad abbatterle e creare meno problemi che si può a coloro che vorrebbero andare ad abbatterle. Abbiamo solo enucleato i temi, che fare invece? Il grosso problema principale è, come si diceva una volta, a monte, no? Noi abbiamo un elenco di specie di fauna selvatica consentite e un elenco di specie di fauna selvatica che sono protette, contenuti nella legge 157, che è del 92, la legge italiana. A sua volta questa fa riferimento a una direttiva europea che è del 79, su un argomento quanto mai mutevole come la consistenza faunistica. che si modifica di anno in anno a seconda delle situazioni, figuriamoci quando sono passati 40 anni, col risultato che noi andiamo a caccia di specie che dovrebbero essere protette e non andiamo a caccia di specie che addirittura potremmo oggi prelevare o addirittura dovremmo prelevare, esempio, come si diceva, i corvidi e anche i piccioni selvatici. Possiamo prendere i colombacci, che sono i colombi naturali selvatici, non possiamo prendere quelli che arrivano dai centri delle città, vengono a mangiare in giro per i campi, è una follia. Quindi che fare? L'unica cosa da fare è di utilizzare le deroghe previste dalla legge, però le deroghe previste dalla legge possono essere autorizzate da ISPRA, Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale, presso il Ministero dell'Ambiente, cosa che si può fare, però bisogna anche fare le richieste in tempo, perché l'ISPRA ci mette alcuni mesi per decidere e darti l'autorizzazione alla deroga. Qualcuno dice, perché questo controllo deve essere affidato ai cacciatori? E a chi altri? Colture per questo strano clima è il titolo del contributo di oggi di Cristina Micheloni per la rubrica del bio e non c'è stagione meglio di questa per parlarne. Ma infatti è un po' emblematico, perché noi parliamo di cambiamento climatico e di imprevedibilità soprattutto di clima, e quest'anno direi che ci ha messo veramente alla prova. È un anno che ci impone però di reagire in qualche modo con creatività, visto che molte delle semine previste non si sono effettuate a causa delle lunghe piogge, in altri casi invece molte hanno dovuto riseminare perché le colture appena seminate non sono andate a buon fine. Nel frattempo il tempo avanza, siamo ormai in piena estate, un'estate che i meteorologi ci preannunciano molto secca e molto, molto calda, quindi ci tocca insomma di andare a cercare qualcosa di diverso, in campo prima, ma la cosa forse un po' più complicata è poi costruire la diversità nella commercializzazione, perché quello è un passo necessario e forse più complicato di quello agronomico. Anche se è abbastanza paradossale, per noi andiamo a fare la spesa, troviamo cose stranissime, diversissime di tutto. Se poi guardiamo anche la televisione, per quelli che lo guardano, le trasmissioni relative alla cucina, ci parlano sempre di ingredienti esotici, che però esotici non sono, spesso sono o nostre vecchie colture che abbiamo abbandonato o comunque colture che potremmo usare. Qualche esempio, tanto per avere un'idea di quello che potremmo fare anche da noi, che qualcuno già sta facendo, non è solo teoria. Il grano saraceno abbiamo già parlato, potrebbe ben giovarsi proprio dei climi asciutti a fine estate, perché risolverebbe in parte un po' il problema della raccolta, perché il problema principale è proprio il fatto che non matura tutto assieme, se ricomincia a piovere ricomincia a fiorire, quindi ci rende il tutto complicato. Una fine estate secca, calda, potrebbe darci una mano a fare un buon raccolto di grano saraceno. Il miglio è una specie africana, ha bisogno di poca acqua, ne basta un pochino alla semina, poi si arrangia, anche quello potrebbe ben configurarsi. Il sorgo da granella, quello intendo per uso alimentare, anch'esso è di origine africana, è molto parco ma molto efficiente nell'uso dell'acqua, quindi non serve l'irrigazione. La quinoa, vero che arriva dall'America, ma come un sacco di altri, solo che è arrivata un po' dopo rispetto al mais e a tanti altri suoi compagni, quindi non è così strano importare una coltura in Europa da questi continenti. Cresce anche qui, diversi la stanno già producendo, tant'è che in Toscana c'è un gruppo di ricerca che già sta mettendo a punto, e a brevissimo sarà in commercio, la varietà italiana di quinoa, quindi un po' più adattata ai nostri contesti. L'amaranto gode di una pessima nomea tra gli agricoltori, però si può anche coltivare per la granella, lo stesso il fagiolo dall'occhio, che è una vigna e che coltivavamo molti molti secoli fa, ma anche il fagiolo mungo, specie popolare in Asia, però con radici mediterranee, che si usa per i germogli. Tutte queste granelle piccolissime, ciclo breve, che ben si adattano a periodi difficili come quelli che stiamo vivendo in quest'annata. Seminate, contadini, seminate. Sì, e se l'ambiente cambia, o cambiamo anche noi, o evidentemente siamo fuori gioco. Il melograno, pianta che una volta era più presente negli orti che nei giardini, dai mille significati e virtù. Ce ne parla oggi Stefano Montello. I simboli evocano immagini, storie, racconti, narrazioni, qualcosa che, parlandoti dal passato, sa produrre, orientare o intuire il futuro. Il melograno, per esempio. Chi ormai sa che nella corteccia delle sue radici, in massima parte, ma anche nella corteccia dei suoi rami, nel pericarpo e nel fiore, sono contenuti diversi principi attivi appartenenti al gruppo degli alcaloidi, e che uno degli alcaloidi, detto pellettierina, come già sapevano gli egiziani 4.000 anni fa, ha una potente azione vermifuga, quindi è indicato nella medicina popolare per contrastare l'emiltiasi, una forma di parassitosi intestinale? Direte, e chi se ne importa? Giusto, e non parliamone più. Il melograno è pianta dall'origine asiatica che fiorisce spontaneamente nel sud del Caucaso e che era conosciuta da tutti i popoli antichi, anche dei romani, che la chiamarono Punica granatum perché convinti che fosse originaria dei luoghi dove l'avevano vista la prima volta, cioè nella Punica Cartagine. È una pianta rustica che, provenendo da località aride, non teme la siccità, quanto invece teme i ristagni d'acqua. Non è soggetta a infezioni fungine pericolose e anche gli attacchi parassitari sono limitati ed agevoli da combattere. Non diventa un albero troppo alto, al massimo 5 metri, e la sua coltivazione non presuppone manodopera specializzata. Simbolicamente è pianta che richiama i concetti di fertilità, fecondità, ricchezza e abbondanza, cui vanno aggiunti quelli di coesione, fratellanza, solidarietà, bellezza, passione e amore. In diverse culture la buccia rappresenta l'involucro che tiene unita una molteplicità di differenze e fa in modo che la ricchezza di ciascuna di esse non si perda. È praticamente l'uno che contiene il tutto. In Egitto il succo del frutto veniva aggiunto alla birra per trasformarlo in una magica bevanda salvifica. Nell'antica Grecia la pianta era sacra a Giunone, sposa di Giove, e a Venere. Per i cristiani il rosso della melagrana era simbolo di carità e del sangue dei martiri. Nella sua mistica questo simbolismo si fa ricco di significato spirituale, sino a ritenere la melagrana espressione della perfezione divina. L'umilissimo timo, pianta tanto discreta quanto strategica per i suoi usi non solo culinari, pensate che gli antichi la utilizzavano contro il morso dei serpenti, ma anche contro la caduta dei capelli e per lavarsi i denti. Antonino Daneluto ci fa un lungo elenco dei suoi utilizzi. Fin dai tempi antichi il timo era noto ed apprezzato non solo per le sue virtù terapeutiche, ma anche per l'uso religioso e sacrificale che se ne faceva. Infatti, presso i greci era impiegato per alimentare la fiamma dei sacrifici, e il fumo odoroso che si levava era come l'anima ormai priva di impurità che saliva verso il cielo a rendere onore agli dei. Era conosciuto praticamente in tutta l'area mediterranea. I romani lo ritenevano efficace contro il morso dei serpenti dopo averlo fatto bollire nel vino. Gli etruschi e gli egiziani lo utilizzavano anche negli unguenti che venivano adoperati per imbalsamare i morti. Nel Medioevo veniva consigliato cotto nel vino soprattutto agli asmatici e nel linguaggio ottocentesco dei fiori simboleggiava l'oporosità e l'amore. Nei prati aridi steppici, nelle pietraie e nelle rupi soleggiate della nostra regione sono presenti alcune specie tutte riconducibili al gruppo del timo serpillo o pepolino, nome scientifico Timus serpillum. Ad un esame superficiale risultano quasi uguali, ma se invece si analizzano attentamente alcuni piccoli caratteri, allora si è in grado di individuare non senza qualche difficoltà le singole specie. La pianta è alta fino a 20 cm, ha foglie piccole, ovato-lanceolate e con numerose ghiandolette. Anche i fiori sono piccoli, rosei o purpurei. Compaiono da aprile a settembre riuniti in un'infiorescenza più o meno allungata. Il timo maggiore, Timus vulgaris, non cresce spontaneo in regione ed è più aromatico del timo serpillo, che tuttavia in cucina è un buon condimento. Le sue proprietà antisettiche favoriscono la conservazione degli alimenti, ma l'impiego più frequente è quello di aromatizzare salse, carni alla griglia, stufati, selvaggina frollata, marinate. In fitoterapia si preferisce impiegare le foglie e le infiorescenze del timo maggiore, particolarmente ricco di olio essenziale, ma anche il timo serpillo contiene timolo e carvacrolo, per cui è considerato antisettico delle vie respiratorie e urinarie, nonché anticatarrale e utile sedativo delle tossi convulsive. Tradizionalmente è usato pure come digestivo, antispasmodico e vermifugo. Trova impiego nelle lozioni per i capelli perché contribuisce ad arrestarne la caduta e a rinvigorire il cuoio capelluto. Gargarismi con un infuso di timo disinfettano gola e bocca e combattono l'alito cattivo. Un buon dentifricio in polvere è quello costituito da foglie essiccate e polverizzate di timo e salvia in parti uguali. Per la rubrica qualità e sicurezza sulle nostre tavole che ci cura Claudia Fontanini dell'Ufficio Qualità del Consorzio FTB, oggi parliamo di antibiotico resistenza e di cosa succede appunto quando questi diventano attivi. Gli antibiotici, come noto, sono sostanze usate per eliminare i microrganismi o per interromperne la crescita e la proliferazione. I batteri possono acquisire la capacità di resistere all'attività di un antibiotico al quale prima erano sensibili. Si tratta di un fenomeno di adattamento che risulta amplificato e accelerato da un uso eccessivo o improprio degli agenti antimicrobici. Lo sviluppo dei batteri immuni ai farmaci è in crescita. Si tratta di un fenomeno grave, di portata mondiale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta oggi una delle maggiori minacce per la salute pubblica. I microrganismi resistenti possono trasferire la resistenza ad altri microrganismi, moltiplicarsi e diffondersi attraverso il contatto diretto uomo-uomo, animale-uomo, o trasferirsi indirettamente da animale a uomo attraverso più complessi cicli di contaminazione ambientale. L'antibiotico resistenza è anche un problema di sicurezza alimentare, in quanto i batteri resistenti possono diffondersi nell'ambiente, per esempio attraverso deiezioni e liquami, e contaminare i cibi, inclusa frutta e verdura. Potrebbero anche trasferirsi dall'animale all'uomo mediante alimenti di origine animale, con meccanismi e identità del rischio che necessitano però di ulteriori approfondimenti. Come proteggerci dai batteri resistenti che possono essere presenti negli alimenti? Mediante la prevenzione, che nel caso dei cibi significa essenzialmente utilizzare corrette modalità di manipolazione, conservazione e cottura, esattamente come nel caso dei normali batteri patogeni. Sono sempre valide le 5 chiavi della sicurezza alimentare, già approfondite in questa rubrica. Possiamo inoltre contribuire al contrasto del fenomeno dell'antibiotico resistenza utilizzando gli antibiotici in modo consapevole e prudente, solo quando sono realmente necessari e strettamente secondo le prescrizioni mediche. Oggi vitello tonnato per la rubrica della gastronomia e per apprendere che, nelle sue origini, il tonno era un illustre sconosciuto, come ci dice il nostro Roberto Zottar. Finalmente è arrivato il caldo e siamo alla ricerca di cibi che diano a tavola una sensazione di freschezza. Un piatto classico, perciò, è quello che molti pensano francese, ma in realtà è piemontese. Sto parlando del vitello tonnato, che qualcuno preferisce chiamare vitel tonné. E poco importa che vitello in francese si dice veau, e il piatto in Francia si chiama veau all'italien. All'inizio il tonno nella ricetta non c'era. A tavola, infatti, la divisione fra carne e pesce è sempre stata netta e rare sono le ricette tradizionali che prevedono la compresenza dei due ingredienti. I precetti che hanno segnato i costumi alimentari dal Medioevo vedevano la contrapposizione del cibo di grasso, rappresentato dalla carne, al cibo di magro, costituito per antonomasia dal pesce. E ancora oggi non solo i piatti, ma anche i menù e la sequenza delle portate non contemplano la convivenza delle due classi alimentari. L'aggettivo tonnato stava a significare cucinato alla maniera del tonno, cioè bollito e in infusione. Le prime origini del piatto sono del 1700 e quel tonné, dal suono francese, deriva probabilmente da tanné, cioè conciato, o per meglio intenderci, pasticciato con l'aggiunta di una salsa. Il piatto infatti si preparava con gli avanzi del vitello lessato che veniva arricchito di alici e capperi perché ritrovasse un po' del gusto perso. Il tonno fu aggiunto a fine 800, probabilmente attratto dal nome stesso del piatto. Nel 1891 Pellegrino Artusi riporta la ricetta del vitello condito con acciughe e bollito con chiodi di garofano, alloro, sedano, carota e prezzemolo. La carne veniva poi tagliata a fette sottili e posta in infusione in una salsa con acciughe, tonno sott'olio, succo di limone e capperi. La maionese, oggi sempre presente, è stata aggiunta solo in tempi molto più recenti. Io lo preparo cuocendo a bassa temperatura un magatello di vitello sottovuoto a 62 gradi per un'ora e mezza, perché le fette sottili mi piacciono rosate e non di colore grigio. Condisco poi le fette, senza coprirle completamente, con una salsa a base di tonno, capperi, poca buccia di limone grattugiata e maionese. Per il vitello all'antica senza maionese si può cuocere arrosto, bagnando con vino, la carne insieme con verdure, acciughe e tonno e usare il fondo di cottura frullato con succo di limone come salsa. In alternativa, cuocete ma non troppo, un girello in acqua, vino bianco, un po' di aceto con sedano, carota, cipolla, spezie e pepe. Per la salsa tritate abbondante tonno con qualche filetto di acciuga, 5 tuorli d'uovo sodi, una manciata di capperi e una di prezzemolo, il tutto mantecato con del buon olio d'oliva e l'aggiunta di qualche goccia di succo di limone e un paio di cucchiai del brodo di cottura. Buon appetito! Ed ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento attivo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,70 e 16,90 euro al quintale IVA esclusa. La soia tra 32,50 e 33 euro. L'orzo, con peso specifico 60-63, si quota tra 15,10 e 15,60 al quintale. Non quotato invece ancora il frumento. Rispetto ad un anno fa, il prezzo del mais è diminuito di 70 centesimi, mentre la soia è calata di 1,80 euro al quintale. Cenni di stabilità nel mercato dei bovini e macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,45 e 2,95 euro al chilo IVA esclusa, e quelli di seconda tra 1,80 e 2,40. Mercato fermo anche nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 6,90 e 7,30 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,80 e 5,30, i frisoni tra 1,80 e 2,10 e i bruni tra 1,70 e 1,90. Timidi accenni di ripresa nel settore suinicolo, con il valore dei lattonzoli di 30 kg franco partenza fissato a 3,09 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 1,25. Domanda sempre sostenuta nel comparto caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 5,40 e 5,95 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 6,70 e 7,20, con marchio di qualità tra 7,40 e 8 euro, lo stagionato di 12-15 mesi tra 7,70 e 8,10. In lieve movimento il settore dei foraggi, dove il fieno Mazengo di pianura e l'erba medica vengono pagati in media tra 19,60 20 e 20 euro il quintale IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 12,50 a 13 euro. Con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Ieri, causa una depressione atlantica, abbiamo avuto un'importante tregua al caldo con una decisa discesa delle temperature dovute a piogge temporali. Era dal 9 giugno che la temperatura massima in pianura non rimaneva sotto i 30 gradi e quindi per 13 giorni consecutivi le massime in pianura hanno oscillato tra i 30 e i 34 gradi, contro i 27 attesi normalmente in questo periodo. È vero che i temporali non sono mancati nelle ultime settimane, ma sono sempre stati episodi legati al riscaldamento pomeridiano che favorisce la loro formazione sui monti e localmente anche in pianura, meno sulla costa. Le prime due decadi del mese sono state circa 3 gradi più calde della norma e pongono finora al secondo posto questo giugno dopo il 2003. Passando alle previsioni per la settimana entrante, diciamo subito che il protagonista sarà l'anticiclone nordafricano, che sta risalendo rapidamente verso Spagna, Francia, Italia e le Alpi, e che da mercoledì farà sentire i suoi massimi effetti sulla nostra regione. Così, se da un lato porterà sole e stabilità per tutta la settimana, dall'altro determinerà un'intensa ondata di calore con massime oltre 35 gradi in pianura. È probabile che le temperature possano insidiare il record di giugno e di 37 gradi del 2003. Le minime saranno oltre i 20 gradi e sulla costa oltre i 25. Il fatto poi che ci troviamo nel periodo di massima durata del giorno e col sole più forte accentuerà gli effetti della calura. È probabile che verso il fine settimana correnti meno calde settentrionali possano far scendere di qualche grado le temperature, che comunque rimarranno alte. Con queste premesse, questo giugno si collocherà probabilmente al secondo posto assoluto dopo quello del 2003, confermando la tendenza che vedo questo mese ad avere temperature molto più elevate di quanto non succedesse in passato. Termina qui la puntata, anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. Cialt denan di San Juan, le dut in gian, ovvero il caldo prima del giorno di San Giovanni, il 24 giugno, è tutto un inganno. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.